Effetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Noi oggi siamo qui per testimoniare ancora una volta la nostra posizione di dissociazione nei confronti di ogni e qualsiasi forma di xenofobia, antirazzismo, antisemitismo. La società ha sempre messo in campo tutta una serie di azioni volte a prevenire e a reprimere certi fenomeni. Questo, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, era Lotito, presidente della Lazio, che diciamo, ha fatto un intervento un po' confuso. Siamo contro la xenofobia, contro l'antisemitismo, l'antirazzismo. In realtà voleva dire il contrario, ma insomma, diciamo, probabilmente era preso da questa concitazione oggi fuori dalla sinagoga di Roma. Dopo, sapete quello che è successo domenica, ne abbiamo parlato molto ieri, di questi insulti antisemiti con l'immagine della povera Anna Franca con la maglia della Roma, fatto da ultra laziali che poi hanno lasciato appunto adesivi e volantini con questa immagine all'Olimpico di Roma. Tantissime reazioni anche oggi, ci ritorneremo infatti anche su questo, e nonostante lo sdegno da molte parti, da più parti, ci sono stati i cosiddetti irriducibili, userei altri termini, laziali, che hanno detto: ma in realtà soltanto uno sfottò, niente di più. E questo vi fa capire insomma quanto non si rendano o non si vogliono rendere conto della gravità di questa azione. E poi gli ultra invece dell'Ascoli, che nonostante sia stato dichiarato un minuto di silenzio e di riflessione all'inizio di tutte le partite, hanno detto: no, noi anche stasera entreremo dopo che ci sarà questa cosa, non vogliamo partecipare a questa ipocrisia, perché ci sono i nostri anziani, ci sono i terremotati, insomma il solito benaltrismo, però qui in modo strumentale. Poi ci occuperemo ovviamente ancora di politica, perché c'è state poste nuove fiducie anche al Senato sul Rosatellum, e questo ha fatto indignare MDP, Sinistra Italiana, Movimento 5 Stelle, ma MDP ha annunciato che uscirà dalla maggioranza, quindi è un grosso passo questo politico in questo momento. Scusate la voce, ma con ottobre iniziano le mie bronchiti, fino ad aprile sono tranquilla da questo punto di vista. Allora, questi alcuni degli argomenti per interagire, per intervenire qui Effetto Notte con le vostre riflessioni, le vostre domande: pagina Facebook di Effetto Notte, come sempre, oppure il numero per scrivere SMS e WhatsApp, che è 349 238 6666. Quindi fate le vostre riflessioni. Intanto vi racconto, come sempre, prima di tutto come è andata la giornata. La discussione sulla legge elettorale, il governo pone la fiducia anche al Senato sul Rosatellum, caos in aula, MDP annuncia via noi dalla maggioranza. Referendum di Lombardia e Veneto, Gentiloni apre sull'autonomia, passi avanti, dice, ma vediamo con quali condizioni. Gli adesivi antisemiti con Anna Frank, sono 15 i responsabili identificati, tra loro anche due minorenni, e mentre lo sdegno è unanime, questa sera gli ultra dell'Ascoli diserteranno il minuto di silenzio. Pensioni, cresce l'aspettativa di vita secondo i dati Istat e si rafforza quindi l'ipotesi dell'aumento dell'età pensionabile nel 2019. TV, paura per Fabrizio Frizzi, ricoverato per un'ischemia, malore durante le registrazioni dell'eredità, non è però grave. Calcio in campo per il turno infrasettimanale, valido per la Serie A, San Siro, Inter-Sampdoria. Partiamo quindi dalla politica, con la discussione sulla legge elettorale. È fissato per domani alle 14 il primo dei 5 voti di fiducia sul Rosatellum 2.0, oppure Rosatellum bis, come lo si voglia chiamare, al Senato, seduta che è stata concitata quella di oggi, mentre all'esterno protestava la sinistra. 5 fiducie sugli articoli del Rosatellum e voto finale giovedì. La decisione della capigruppo di Palazzo Madama arriva dopo che il governo chiede di porre la questione nell'aula del Senato per evitare voti segreti e franchi tiratori. Il ministro dei rapporti con il Parlamento, Anna Finocchiaro. Signor Presidente, onorevoli senatori, a nome del governo pongo la questione di fiducia sull'approvazione senza emendamenti e articoli aggiuntivi degli articoli 1, 2, 3, 4 e 6. Per favore, i cartelli. Il capogruppo di Sinistra Italiana Loredana De Petris occupa la sedia del presidente del Senato Pietro Grasso in segno di protesta sulla fiducia. Subito dopo MDP annuncia di votare contro e di uscire formalmente dalla maggioranza, mentre le sinistre riunite manifestano contro il Rosatellum fuori da Palazzo Madama. Nichi Vendola. Una legge che viene fatta all'ultimo momento con il voto di fiducia, cioè violando una previsione costituzionale. che dice che le leggi elettorali sono materia ordinaria. Domani invece, sempre davanti a Palazzo Madama, la manifestazione 5 Stelle. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Altro fronte caldo, altro fronte aperto sono quello con i sindacati relativo alle pensioni. L'Istat ha rivisto le aspettative di vita, si va verso un'aspettativa di vita più lunga e quindi anche con una pensione, diciamo, più ritardata. Migliorano le aspettative di vita e aumenta l'età per andare in pensione. Rispetto al 2013, certifica l'Istat, lo scorso anno la speranza di vita alla nascita è cresciuta di 7 mesi e si attesta a 82,8 anni di media. Per le donne è più alta e arriva fino a 85 anni, per gli uomini fino a 80,6. A 65 anni poi la speranza di vita si è allungata di 5 mesi e così, secondo le regole attuali, nel 2019 si andrà in pensione a 67 anni e non più a 66 anni e 7 mesi. La legge infatti prevede che il governo ogni 3 anni adegui l'età pensionabile alle aspettative di vita rilevate dall'Istat. Il meccanismo è stato già applicato 2 volte, l'ultimo scade il prossimo anno quando si dovrà intervenire per definire il nuovo requisito dell'età pensionabile che scatterà nel 2019. L'adeguamento automatico dell'età pensionabile alle aspettative di vita non piace ai sindacati che da mesi chiedono al governo di bloccare il meccanismo e modulare l'età in base al lavoro di ognuno, considerando anche quelli più gravosi. Il governo sembra però intenzionato a tirare dritto sull'applicazione della legge, anche se secondo il ministro del lavoro, Giuliano Poletti, ci sono i tempi per una discussione politica e parlamentare. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E poi, sempre per quanto riguarda la politica italiana, il referendum. Il presidente del Consiglio Gentiloni si dice disposto a fare dei passi in avanti sull'autonomia dopo il referendum di domenica di Veneto e Lombardia. Il governo dice pronto a un confronto di merito sulle funzioni per avere regioni più efficienti. Spiega, vedremo però quali e quante condizioni. L'Italia dice comunque non si discute l'unità italiana. Maroni punta ad andare al confronto con Palazzo Chigi entro 3 settimane, apre il governatore dell'Emilia Romagna Bonaccini, che intanto avvia la sua trattativa col governo. Gli ho chiesto, dice, se è disponibile a unificare i 2 tavoli. Zaia intanto, a proposito delle parole dell'apertura di Gentiloni, assicura: non mancheremo di fare la nostra proposta nell'alveo della Costituzione, e rilancia sullo statuto speciale. Poi ritorniamo anche su questo. Venerdì dovrebbe invece arrivare la nomina di Banca Italia, mentre prosegue lo scontro tra 5 Stelle e PD. A Palazzo Chigi è il momento della riflessione sul futuro di Banca Italia. L'obiettivo del governo, con l'avallo anche della Presidenza della Repubblica, è quello di evitare scossoni al prestigio di Via Nazionale. Ecco perché, spiegano fonti dell'esecutivo, non vi sarà alcuna accelerazione nella decisione, a maggior ragione con Visco che domani sarà a Francoforte per il board della Banca Centrale Europea. Il confronto resta allora tutto politico, con il botta e risposta tra Boschi e Di Maio. La prima ha sfidato il leader 5 Stelle ad un confronto TV sulle crisi bancarie. Basta bugie, ribadisce l'esponente PD, porta a porta ci aspetta, ora non ho tempo, replica Di Maio, sono impegnato in campagna elettorale in Sicilia, ma il confronto dovrà essere in una piazza davanti a Banca Etruria con i risparmiatori, così la Boschi avrà modo di dire anche a loro la verità. Di Maio ha aspettato indicazioni da Casaleggio per replicare, ironizza quindi l'ex ministro. Dai 5 Stelle Di Battista commenta: chi non ha nulla da temere non ha problemi a confrontarsi di fronte ai cittadini. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E siamo adesso al caso degli adesivi antisemiti con Anna Frank. Gli ultra dell'Ascoli stasera entreranno nella curva sud per assistere alla partita di Serie B Ascoli Ternana. Dopo, dicono, il minuto di riflessione deciso dalla Lega Calcio. Non vogliamo essere complici di un disastro mediatico, di un teatrino, scusate, mediatico istituzionale, dice un post su Facebook degli ultra, che dimentica i terremotati, dicono le istituzioni, i nostri anziani, ma invece sempre presentissimo a indignarsi, a strumentalizzare una decina di adesivi. Questo è il modo di affrontare la questione da parte degli ultra dell'Ascoli. Intanto sono una 15 gli ultralaziali identificati, tra loro anche 2 minorenni. La società Lazio, come avete sentito all'inizio, ha preso le distanze dal gesto, mentre gli irriducibili biancocelesti insistono: lo scherno non è reato. Depone una corona di fiori davanti alla sinagoga. Ad accoglierlo solo una ressa di telecamere. Non c'è la comunità ebraica di Roma perché, dicono, l'iniziativa non era concordata. Visita lampo quella del presidente della Lazio Lotito. La società ha sempre represso certi fenomeni, dice, con questo gesto vogliamo ribadire la nostra posizione. Poi annuncia che domani sera a Bologna la squadra scenderà in campo con una maglia commemorativa di Anna Frank e che ogni anno 200 giovani tifosi laziali faranno visita ad Auschwitz. Proprio per mettere nella condizione i ragazzi di capire di che cosa stiamo parlando, perché le persone probabilmente dimenticano, giocano su alcuni fatti che non devono essere dimenticati, sui quali non esistono spot. E tutto il calcio si mobilita su ogni campo da gioco. Nel fine settimana, dispone la Federcalcio, sarà letto un brano del diario di Anna Frank e i capitani ne regaleranno una copia ai bambini che li accompagnano. Gli irriducibili invece non mollano, solo goliardia, lo scherno non è reato, scrivono in una nota. Ma intanto durissime le reazioni di tutte le istituzioni. Episodio disumano e allarmante, dice Mattarella, al quale il ministro dell'interno Minniti assicura l'impegno per individuare i responsabili ed escluderli definitivamente dagli stadi. La procura di Roma apre un fascicolo e indaga per istigazione all'odio razziale. Ci sono già i primi identificati. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. E mentre appunto a Roma si indaga sull'episodio, scusate, a Benevento va in scena un altro episodio di razzismo. De Zerbi Zingaro è la scritta apparsa sullo striscione affisso ieri sera all'esterno dello stadio di Benevento, proprio mentre la società annunciava il nuovo allenatore al posto di Baroni. E adesso spostiamoci all'estero, una notizia che riguarda la Siria. La Russia ha posto il veto sulla bozza di risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU per il rinnovo del meccanismo investigativo congiunto di Nazioni Unite e OPAC sugli attacchi con armi chimiche in Siria. Cioè praticamente la Russia ha posto il veto su nuove e costanti indagini rispetto all'uso di armi chimiche in Siria. Il testo elaborato dagli Stati Uniti e copatrocinato anche dall'Italia ha ottenuto 11 sì, 2 astensioni, tra cui la Cina, 2 no, tra cui il veto appunto di Mosca. Il mandato del team di esperti termina il 18 novembre. Gli Stati Uniti chiedevano di rinnovarlo per un altro anno, questo di queste inchieste. La Russia aveva chiesto di rinviare il voto al 7 novembre. Dal Brasile, la Suprema Corte federale, chiamata a pronunciarsi sull'estradizione per Cesare Battisti, ha deciso di rinviare alla prossima settimana la decisione sulla libertà personale dell'ex terrorista. Oggi però si è espresso anche il Tribunale regionale, che ha deciso di mantenere in libertà provvisoria Battisti, arrestato lo scorso 4 ottobre e accusato in Brasile di riciclaggio e fuga di capitali. Battisti dovrà presentarsi periodicamente in tribunale e gli sarà proibito di lasciare lo Stato di San Paolo. Per quanto riguarda la crisi spagnola, il presidente del governo regionale catalano Puigdemont è disposto a intervenire davanti al Senato di Madrid prima che questo autorizzi venerdì la presa di controllo della regione da parte dell'esecutivo spagnolo. Vedremo nei prossimi giorni cosa succede. Intanto in Arabia Saudita, dopo la storica decisione di permettere alle donne di guidare un'automobile, cosa che però accadrà solo a giugno 2018, l'Arabia Saudita, paese noto per le sue regole ultraconservatrici, tornerà un Islam moderato. A prometterlo è l'erede al trono e uomo forte del regno, Mohammed bin Salman. Stiamo tornando, dice, a quello che avevamo prima, un paese con l'Islam moderato, e poi ha detto distruggeremo le ideologie estremiste di oggi e la regione tornerà un Islam moderato aperto al mondo. La denuncia dell'ONU sulle spose bambine in Africa: se non si preme l'acceleratore sui progressi serviranno oltre 100 anni, dice l'ONU, per vedere la fine del fenomeno delle spose bambine, dei matrimoni che ancora oggi nell'Africa occidentale e centrale coinvolgono i minori, con conseguenze di lunga durata che altereranno la vita per milioni di donne, paralizzando la prosperità della regione. E poi, per quanto riguarda invece la TV, paura per Fabrizio Frizzi, il conduttore è stato colto da un malore ieri durante la registrazione della puntata dell'Eredità. Ora è ricoverato per accertamenti all'ospedale Umberto I di Roma, non comparirà quindi sui teleschermi di Rai 1, però la Rai fa sapere che per fortuna, insomma, le sue condizioni non sarebbero gravi. Cinema esce il 6 novembre, quindi tra poco, nelle sale e anche in DVD, ma anche nelle sale cinematografiche. Nel 100° anniversario della Rivoluzione Russa esce La Corazzata Potemkin, che è stata realizzata in Russia nel 1925 e uscirà in edizione integrale restaurata, questo capolavoro russo. Con orgoglio facciamo riprendere il largo a questo film meraviglioso, commenta il direttore della Cineteca di Bologna Gianluca Farinelli, ricordando quanto abbia pesato la percezione Svisata, dice, un film di soli 70 minuti e prodigiosa velocità, le versioni manipolate hanno pesato sulla sua fama. E poi il fatto che ci sia stato anche lo famoso sberleffo fantoziano, che qui non ripetiamo, dice, geniale ma paralizzante, un fardello di equivoci, insomma, che ne hanno oscurato la prodigiosa energia sperimentale. Andiamo invece al prodigioso Dario Ricci. Inter Sampdoria, c'è qualche corazzata Potiocchi in campo, Dario? Beh, insomma, sicuramente Paolo Villaggio Doriano, non so se è più rammaricato, sarà più rammaricato da lassù per la Sampdoria che sta perdendo per 1-0 sul campo dell'Inter, oppure per la corazzata Potiomkin che questa volta non riuscirà a vedere. L'edizione integrale, infatti, direi restaurata. Che almeno questo gli è stato risparmiato. Tornando alle cose serie, a parte le mie battutacce, diciamo che l'Inter appunto è in vantaggio quando siamo al 27esimo del primo tempo sulla Sampdoria, il gol di un ex Skriniar che ha ben sfruttato un tocco di Vesino su azione di calcio d'angolo di Candreva per trovarsi a tu per tu sotto misura con Puggioni e battendo così il portiere Doriano con un bel tocco in scivolata. Un Inter che al momento, in attesa delle partite domani che vedranno in campo anche il Napoli impegnato con l'altra genovese, il Genoa a Marassi, è capolista solitaria, ma la partita è ancora lunga. Grazie Dario Ricci, e quindi poi durante questa lunghezza ci ricollegheremo di nuovo con Dario. Vedo già un messaggio di Gianni da Bologna sulla questione delle pensioni, dell'aspettativa di vita che si allunga. Dice Gianni, è una vergogna adeguare la pensione all'aspettativa di vita, sappiamo bene che non è così, vogliono far cassa con i lavoratori. Poi parleremo anche di questo argomento. I vostri commenti, pagina Facebook di Effetto Notte, oppure li scrivete via SMS e WhatsApp al 349 238 6666. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. 60 minuti, lo sapete, tutte le sere pieni zeppi di notizie, di racconti della giornata, di approfondimenti naturalmente con gli ospiti per spiegare alcuni argomenti in particolare. Tra poco infatti avremo la prima ospite, parleremo di politica, visto che è molto, diciamo, vivace in questo momento tra referendum, legge elettorale eccetera, e poi ci sono gli altri temi per i vostri interventi. Pagina Facebook di Effetto Notte, la quale tra l'altro potete aderire senza indugio giorno e notte, oppure il numero per messaggi e WhatsApp. Andando di nuovo sul tema degli insulti antisemiti, Stefano da Parma dice che il problema è l'esistenza di un popolo di decerebrati come gli ultras e del loro potere all'interno delle società calcistiche. E poi altri messaggi invece sulla questione dell'automatismo, no? Con la vita che si allunga, l'aspettativa di vita, e quindi anche le pensioni che arrivano sempre più tardi. Roberto dice, da un certo punto di vista ci può anche stare, anche se andrebbero fatti dei distinguo rispetto alla gravosità di certi lavori, ma mi domando dove erano i sindacati quando c'erano lavoratori che andavano in pensione dopo 15 anni di servizio. Poi parleremo anche di questo. Intanto, se non avete acceso puntualmente alle 21, cosa che dovete fare tutte le sere, ricordatevi, vi ricordo i fatti principali della giornata. Procede la discussione sulla legge elettorale, il governo pone la fiducia anche al Senato sul Rosatellum, quindi caos in aula e MDP annuncia via dalla maggioranza. Referendum di Lombardia e Veneto, c'è un'apertura di Gentiloni, anche se dice vediamo e con quali condizioni. Gli adesivi antisemiti con Anna Frank, sono 15 gli ultra identificati, tra loro ci sono anche due minorenni, e mentre c'è lo sdegno unanime, questa sera gli ultra dell'Ascoli entrano dopo il minuto di silenzio perché non lo vogliono rispettare. Pensioni, appunto, come scrivevano gli ascoltatori, cresce l'aspettativa di vita secondo i dati Istat e quindi si rafforza l'ipotesi di una pensione, di un'età pensionabile che viene ritardata nel 2019. E poi per il calcio in campo, per il turno infrasettimanale valido per la Serie A, c'è l'Inter che ha appena fatto un altro gol e 2-0 contro la Sampdoria per il momento. Quindi ripartiamo subito dalla politica italiana. Ci sono due temi principali, il referendum di Lombardia e Veneto, avvenuti domenica, ma già ne abbiamo parlato ampiamente ieri, ma ovviamente il dibattito e l'iter per prima o poi avere questa maggiore autonomia come da voto di Veneto e Lombardia proseguono. E poi la legge elettorale, visto che oggi c'è stato questo caos in aula al Senato perché il governo ha deciso di porre la fiducia, come era ampiamente previsto del resto anche in Senato. Saluto la nostra Barbara Fiammeri. Cara Buonasera. Barbara, c'è ancora la voce, mi resiste ancora per un po'. Io vorrei far sentire, allora, da cosa preferisci partire, Barbara? Dal referendum oppure dalla legge elettorale? Scegli tu, va bene. Busta numero uno, busta numero due. Allora, direi, facciamo più sinteticamente il referendum, visto che abbiamo parlato già ieri e che ancora, insomma, le prospettive sono aperte, vedremo in quale direzione. Vorrei far sentire, Gentiloni, che cosa ha detto, dicevamo, della sua apertura nei confronti di possibili autonomie. Io guardo davvero con interesse, con rispetto, con disponibilità a questa discussione che si è aperta in seguito anche ai referendum sul tema dell'autonomia, della possibilità su alcune materie di fare dei passi in avanti sul terreno delle autonomie, su alcune funzioni da parte delle regioni. Il governo è pronto a un confronto di merito su queste questioni, ovviamente nei limiti fissati dalle nostre leggi e dalla nostra Costituzione. Quindi probabilmente nei limiti delle leggi della nostra Costituzione, Barbara, per il momento almeno non ci sono grandi possibilità per la richiesta di Zaia, che intanto dice non mancheremo di fare, visto questa apertura, le nostre proposte nell'alveo della Costituzione, però dice aggiungeremo la richiesta dello statuto speciale, che non è una provocazione, come ieri ha detto il governo, questa del statuto speciale è una provocazione, ma dice una rivendicazione dei veneti ormai che fanno da tempo e che ogni regione è autorizzata, dice Zaia, a chiedere attraverso un disegno di legge di modifica costituzionale. Secondo te, tra l'altro Maroni oggi titolavano alcuni giornali, ha detto no, insomma non mi pare la mossa giusta, lo statuto speciale, possiamo essere speciali lo stesso senza statuto. Ma mi sembra che quella di Zaia sia una retromarcia anche per evitare che all'indomani di una vittoria importante per la Lega i titoli di oggi fossero dedicati alla divisione tra i due governatori, appunto, come tu dicevi, con Maroni che dice seguiremo, insomma, il percorso previsto dalla Costituzione, Zaia invece che ieri in giunta aveva chiesto e ottenuto di procedere per una modifica della Costituzione in senso appunto dello statuto speciale anche per il Veneto. Mi sembra un po' di rivedere un po' la vicenda dei vaccini, quando Zaia si lanciò a favore, diciamo, di chi era contrario alle vaccinazioni obbligatorie e poi fece qualche giorno dopo, se non addirittura l'indomani, una retromarcia. Mi sembra un po' lo stesso film. È evidente che intanto anche da un punto di vista pratico percorrere la strada di una revisione costituzionale è già complicato di per sé, poi a fine legislatura direi che insomma è un po' paradossale. Ora si aprirà questo percorso che poi è quello anche dell'Emilia Romagna, che non ha fatto, come abbiamo detto, il referendum, ma ha seguito un percorso analogo, nel senso nei contenuti, appunto, di una maggiore autonomia su alcune materie concorrenti, e vedremo come sicuramente poi il governo attuale lo seguirà, ma soprattutto il governo che verrà dopo le elezioni politiche. Già, perché questi sono processi che non si fanno in poche settimane. Chiaramente. Barbara, ma comunque tutto a posto nella Lega? Dicevi che non vogliono appunto far sentire troppo differenza o spaccatura tra di loro. Beh, no? Diciamo che questa mossa, questa divisione tra Zaia e Maroni all'indomani del referendum è un po' un autogol da parte della Lega, che appunto deve parlare delle divisioni, fa parlare delle proprie divisioni interne anziché capitalizzare il risultato ottenuto. Oh, invece, per quanto riguarda la legge elettorale, dicevamo che, come previsto, lo si diceva, no? Dopo le fiducie alla Camera, si vedrà che anche al Senato il governo porrà la fiducia, 5 fiduce, si comincia da domani, no? A votarle, Barbara, e chiaramente diciamo, le opposizioni non l'hanno presa bene, c'è stata la protesta di MDP, ma anche di Sinistra Italiana, Movimento 5 Stelle si è messo la benda sugli occhi, però una cosa grossa è che MDP ha proprio detto noi fuori dalla maggioranza. Ma prima di questo sentiamo intanto direi di sentire Mirabelli del PD, che difende la fiducia. C'è stata un'ampia discussione, ora si mette il voto di fiducia per impedire 40 voti segreti che renderebbero più difficile il percorso di una legge che la stragrande maggioranza del Parlamento, maggioranza e una parte importante dell'opposizione, sostiene. Ora sentiamo invece Endrizzi del Movimento 5 Stelle. Criminali. Il crimine comporta dolo, cioè volontà, una volontà porca. Una porcata, appunto, come Calderoli definì lo stravolgimento della sua legge elettorale nel 2005. Questo non gli impedì di votarla, così come oggi la Lega sta avallando questa nuova porcata. Ed è naturale, direi genetico. I figli del Porcellum fanno porcate, si riproducono, fanno le ammucchiate elettorali per grufolare voti, riducono la democrazia ad un trogolo. E se vi ripugna il parallelismo, posso tornare a chiamarvi criminali. Ecco, quindi o maiali praticamente o criminali. Sentiamo adesso invece la deputata Guerra, la senatrice Guerra, scusa, di MDP. Non c'era bisogno della forzatura della legge di fiducia. Siamo andati oggi stesso dal Presidente della Repubblica per comunicargli che siamo fuori da questa maggioranza. Quindi ufficiale Barbara Fiammeri? MDP sì, fuoriusciti dal PD, non sono più nella maggioranza, non fa più parte? Sì, anche qui direi che è un film già visto, nel senso che oggi abbiamo la formalizzazione di qualcosa che era già nei fatti, nel senso che già in altre occasioni MDP si era smarcata dal resto della maggioranza, aveva votato in modo diverso e quindi questa formalizzazione è una conseguenza abbastanza logica di quanto era avvenuto in questi mesi. Detto questo, è evidente che per soprattutto il passaggio della legge di bilancio i numeri a Palazzo Madama, al Senato, saranno sempre più risicati per la maggioranza e quindi si prevede un percorso complicato, però era complicato già da prima, si parlava già da prima di MDP come possibile no alla legge di bilancio, quindi in realtà anche qui i conti erano già stati fatti senza di loro. Sulla legge elettorale poi quanto ai numeri non ci sono rischi, perché la legge elettorale, ricordiamo, è garantita, insomma è appoggiata anche dalla Lega, da Forza Italia, da ALA e da altri gruppi minori, quindi i numeri ci sono. Ci si potrebbe chiedere allora perché il governo, nonostante questi larghi numeri, abbia messo ben 5 fiducie, perché almeno questa è la spiegazione che ha dato il governo ed è abbastanza credibile, le opposizioni, ovvero MDP ma anche i 5 Stelle, avevano puntato tutto sui voti segreti, una quarantina ne sono stati calcolati sulla base degli emendamenti presentati. È chiaro che qualunque emendamento, anche minimo, anche residuale, fosse passato, avrebbe imposto, come sappiamo, un nuovo passaggio alla Camera con tutto quello che comporta. Quindi diciamo che il voto di fiducia serve a blindare il provvedimento e a farlo uscire nel testo votato già dai deputati. Questa è la scelta che ha fatto il governo e che è stata sostenuta anche dai partiti che sostengono la legge, comprese quelli della opposizione, cioè appunto dicevo Forza Italia e Lega, che al momento della fiducia infatti non voteranno contro, ma si limiteranno ad uscire dall'aula per poi rientrarvi sul voto finale, che ci sarà un voto finale a scrutinio palese in cui quindi si conclamerà che 2/3 del Senato voteranno a favore di questa legge. Barbara, in chiusura ti faccio due domande con una risposta molto breve. Andrei a vedere la corazzata Potemkin, che ho appena detto che è stata restaurata. Non credo, tanti anni fa. Quindi è già dato. Senti, poi mi devi aiutare con questa ascoltatrice Laura, che da settimane mi perseguita, continuando a scrivere che non le diamo la risposta sugli spinaci Bonduel, non c'era la mandragora, le avevo già detto che non c'era la mandragora perché così avevano detto le analisi che erano state fatte su quelle, ricordi, pacco di spinaci che aveva intossicato una famiglia milanese, dalle analisi è venuto fuori che non c'era la mandragora, non ci sono state altre notizie, lei continua a dire che non ci ascolta più se non diciamo cosa c'è in questi spinaci, tu hai la risposta per caso? Ma Barbara, non so più che cosa dirle. Io la risposta non ce l'ho, però posso dire alla nostra ascoltatrice che io questa mattina ho comprato al mercato e non surgelato una serie di verdure fresche in cui c'è la mandragola. La mangi? La mangio. La mangio, certo che la ma mangio. Ma sei tossica? Barbara, guarda che poi che, con chi parlo io di politica. Modiche quantità. La modica quantità. Bisogna capirla, bisogna essere esperti di modiche quantità. Va bene, io spero che Laura insomma, sia soddisfatta di queste risposte, non so più che dire. Avrà... Non compri prodotti surgelati, vada al mercato, la verdura fresca è molto meglio. Anche se vanno bene anche i surgelati. Magari avrà un freezer pieno, sarà probabilmente inquieta e vuole assolutamente una risposta. Mangi tutti gli spinaci che vuole, Laura. E anche Barbara Fiammeri con Mandragora inserita. Grazie cara Barbara. Grazie a voi. Ciao, buona serata. Ci sentiamo tra poco. La natura di prima mano. Vi presenta... Effetto Notte. Le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, siete al posto giusto, nel momento giusto, e anche se volete con la giusta conduttrice con voi, Roberta Giordano, anche se la voce è quella che è, ringrazio Mauro che mi ricorda il propoli puro da spruzzare in gola, dice fa miracoli, lo so, per la gola, poi però la mia bronchite tra smog, autunno, fragilità personale, eccetera, eccetera, fino ad aprile me la tengo. Grazie comunque, grazie ai vostri messaggi che stanno arrivando sui vari argomenti, sulla pagina Facebook di Effetto Notte o al 349-238-6666. Noto una certa contrarietà rispetto al tema di cui vi parlerò tra pochissimo con l'ospite che saluteremo a momenti. Intanto però vi ricordo quali sono tutte le varie notizie principali della giornata. Allo stadio il diario di Anna Frank, l'hanno deciso la Lega Calcio di leggere dei brani prima delle partite, questo contro l'atto di antisemitismo. Tra gli identificati, che sono una quindicina dei responsabili di questo atto, due minori, uno ha persino 13 anni. Il governo blinda Rosatellum, ne abbiamo appena parlato, quindi pone 5 fiducie al Senato, insorgono le minoranze, MDP dice noi fuori dalla maggioranza. Per quanto riguarda i referendum che ci sono stati domenica in Lombardia e Veneto, Gentiloni apre sull'autonomia, dice passi avanti, però vediamo con quali condizioni. E poi continua lo scontro di Maio Boschi, che sono i ferri corti su Banca Italia, probabilmente forse ci sarà una loro sfida tra loro in TV. Poi l'Istat che aumenta l'aspettativa di vita, e poi ne parleremo tra pochissimo. E ancora paura per Fabrizio Frizzi, ricoverato per un'ischemia, un malore durante le registrazioni del programma L'Eredità, però per fortuna non è grave. Quindi occupiamoci adesso di longevità e previdenza, e c'è una buona notizia e una cattiva notizia. Di solito si dice dimmi prima la cattiva notizia, così poi uno si conforta. In realtà qui per una questione di logica e di conseguenzialità vi devo dare prima la buona notizia. La buona notizia è che l'Istat ha pubblicato i dati sul 2016 relativi all'aspettativa di vita e registra un aumento di 5 mesi, cioè la vita in media si allunga di 5 mesi rispetto al 2013. E questa è la buona notizia, perché la speranza di vita alla nascita risulta, come di consueto, più elevata per le donne, quindi 85 anni per le donne, ma il vantaggio nei confronti degli uomini, che per i quali l'aspettativa di 80,6 si limita a 4,5 anni di vita in più, 4 anni e mezzo, insomma. I trentini sono i più longevi, i campani meno. Mi viene da pensare che quindi lo statuto speciale, caro Alberto Rioli, vice direttore del Sole 24 Ore, faccia bene, allunghi la vita, non lo so. Comunque, Alberto. Ciao a tutti, buonasera. Senti, invece, quindi quella è la notizia buona. La notizia negativa è che, conseguentemente, allungandosi l'aspettativa di vita, si rafforza l'ipotesi di alzare l'età della pensione a 67 anni nel 2019. E tra poco ti leggerò un po' di messaggi molto, molto contrariati. Sì, i sindacati hanno reagito subito, scusa se ti interrompo, dicendo che bisogna mettere mano a questo automatismo, che non è possibile. CGIL e CISL e UIL in una nota congiunta hanno scritto che bisogna bloccare questo adeguamento all'aspettativa di vita, perché ci vuole l'avvio di un confronto per una modifica dell'attuale meccanismo, perché poi bisogna anche considerare i diversi lavori, no? La diversità sia di speranza di vita a seconda anche dei luoghi in cui si vive, si lavora, e anche la gravosità dei lavori. Mi pare. Sì, questo è ragionevole. Il problema è che c'è una classica strettoia normativa, diciamo così. Per adesso la legge Fornero prevede appunto un adeguamento automatico su base triennale, sulla base appunto dell'indicatore di aspettativa di vita dell'Istat. Quindi è un treno in corsa, eventualmente si tratterebbe di fermarlo, perché altrimenti se la legge non cambia questa cosa sarà inevitabile. È pur vero, stiamo parlando di un innalzamento dell'età a 67 anni e qualche mese per la verità, a partire dal 2019, quindi la politica ha ancora sicuramente un ampio margine di tempo per intervenire, ed è la cosa che ha detto non a caso il ministro del lavoro Poletti oggi. È pur vero d'altro canto che lo stesso presidente dell'INPS, per esempio Boeri, ha fatto capire che se facciamo una retromarcia rispetto a questo meccanismo di adeguamento automatico che crea un equilibrio finanziario nel sistema del welfare italiano, andiamo incontro a uno squilibrio pesante, possono essere addirittura la rilevantissima cifra di 140 miliardi da qui al 2040, che è una cifra mostruosa, spalmata ovviamente su tutti questi anni, è un po' meno all'anno, ma comunque un onere aggiuntivo in più di finanza pubblica. Insomma, un classico pasticcio evidentemente. È pur vero che non si può pensare di allungare all'infinito questa età del ritiro dal lavoro e spaccarsi la testa quotidianamente con provvedimenti che cercano di creare le uscite anticipate, perché poi questa è la realtà del nostro sistema di welfare. Alberto, ti leggo un po' di messaggi. Per esempio Gianni da Bologna che dice: una vergogna adeguare la pensione sull'aspettativa di vita, sappiamo bene che non è così, vogliamo fare cassa con i lavoratori. Anche i sindacati, insomma, mostravano qualche dubbio sulla attendibilità di questa notizia, ma insomma sono dati Istat. Poi altri messaggi, per esempio: siamo all'assurdo, dice Emanuele da Vicenza, che all'assurdo, 44 anni in acciaieria con i turni di notte, quale aspettativa di vita si può avere? E poi Andrea da Udine, no, questo è un altro messaggio su un altro argomento, dice Umberto da Genova: spiegatelo agli edili che dovranno lavorare sulle impalcature fino a 67 anni, o ai lavoratori dell'acciaieria, o a quelli dei cantieri navali, o gli autotrasportatori che guidano tir. Non si possono paragonare queste figure lavorative a notai, avvocati, impiegati, eccetera. Bisogna fare dei distinguo, altrimenti non ci sarà più giustizia sociale. Poi Roberto che dice: da un certo punto di vista sì, ci si può stare anche, andrebbero fatti dei distinguo rispetto alla gravosità di certi lavori, anche lui lo dice. Poi si chiede: ma dove erano i sindacati quando i lavoratori andavano in pensione dopo 15 anni di servizio? Fortunato scrive che l'aspettativa di vita più lunga non significa arrivare più in salute, dopo 35 anni qualsiasi sia il lavoro fatto si deve poter andare in pensione, tutte le altre discussioni sono fuffa. Per Antonio: vergognoso a dir poco, eccetera eccetera. Certo, anche noi tra 20-25 anni non saremo gli stessi, Alberto? Sicuramente no. Comunque i nostri ascoltatori hanno messo a fuoco tutti i vari problemi legati a questa contingenza, perché è chiaro che bisogna trovare delle deroghe per i lavori usuranti, ma che peraltro la legge già prevede, quindi non escludo che venga riattivato il negoziato, magari per estenderle o comunque per riadeguarle anche sulla base del nuovo indicatore, questo va da sé. L'altra osservazione che mi sembra giusta è che sì, stiamo allungando la vita, ma spesso si tratta di una terza fase, come dire, non sempre collegata a una vecchiaia attiva o efficiente. Già. Spesso stiamo allungando la parte più triste, per così dire, della parte della vita, perché che ha bisogno di cure, ha bisogno di assistenza, non c'è l'autosufficienza, tema che ci rimanda naturalmente a un discorso molto più grande di come riequilibrare il welfare, perché forse ci stiamo troppo concentrando su un'idea delle pensioni e non ci concentriamo invece su qual è la nuova scansione della vita, che prevede una fase 3, diciamo così, dove magari cominciano a aumentare quelli che non sono autosufficienti, e quindi il welfare dovrebbe forse concentrarsi anche un po' su questo tipo di problema, ma per ora non lo fa obiettivamente. Alberto, poi c'è per esempio un altro ascoltatore che scrive tra la pagina Facebook di Effetto Notte, il 349-238-6666: perché non si parla del personale delle forze armate che ancora a 50 anni va in pensione? Poi invece Mirko da Cuneo, molto preoccupato, dice: ma se paradossalmente si vivesse fino a 100 anni, dovremmo lavorare fino a 80? Bisogna cambiare il sistema. Secondo te, onestamente, Alberto, per quello che puoi prevedere o ragionarci sopra, cioè, è ineluttabile, nel senso che più vivremo e più dovremo lavorare, se no chi paga i contributi? O si potrà trovare prima o poi un modo di rendere tutto sostenibile senza tirarci col bastone, con la schiena piegata fino a chissà quale età al lavoro? Purtroppo temo che il problema non sia risolvibile, nel senso che questo, il nostro, è un sistema, prima era un sistema ripartizione, adesso è un sistema contributivo, ma è evidente che dobbiamo prevedere di riempire una vasca, che sono i contributi, da un rubinetto e poi da un altro rubinetto farli uscire. Quindi ci vuole una situazione di equilibrio tra entrate e uscite, evidentemente, quindi tra chi versa e chi usufruisce dei trattamenti. Noi oggi paghiamo il fatto che c'è stata una situazione di squilibrio, di poca lungimiranza nelle modalità con cui sono state decise le pensioni nei decenni scorsi, obiettivamente. E poi paghiamo il fatto che stiamo diventando sì un paese più longevo, ma stiamo anche diventando effettivamente il secondo paese più vecchio del mondo, quindi con un problema di eccesso di uscite rispetto alle entrate, per tornare alla metafora della vasca che facevo prima. E quindi sulle nuove generazioni, se il sistema rimane così, rischiano di caricarsi oneri assolutamente insostenibili. Quindi sicuramente la cosa va un po' ridiscussa, rimessa in piedi, probabilmente creando nuove forme di sussidiarietà, di incontro tra pubblico e privato, magari mettendo in campo le assicurazioni, cosa di cui peraltro si sta anche discutendo, perché si potrebbero avere modalità di coperture finanziarie diverse, forse a fronte di oneri minori. Il tema esiste, il tema c'è, non ce l'abbiamo solo noi, e probabilmente è tutta l'Europa che sta rivedendo un po' i fondamentali del proprio sistema di welfare, perché sono diventati insostenibili in un momento in cui le risorse pubbliche scarseggiano e non c'è più modo di poter contare sull'indebitamento, sul deficit o sulle svalutazioni competitive della propria moneta. Diciamo tutta una serie di escamotage che hanno fatto felici varie generazioni nei decenni precedenti sono venuti meno, e quindi è opportuno ripensare il sistema in modo un po' generale. Però torno a dire, immaginando collaborazione pubblico-privato e soprattutto estendendo maggiormente l'idea di un welfare che non sia solo pensioni, ma che sia anche assistenza a chi poi non è autosufficiente dopo, altro che pensare al lavoro. Grazie Alberto Rioli. Ciao Alberto, e buon lavoro, visto che stai lavorando anche tu. Viabilità, tra poco. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Ve li ricordo adesso in pochi secondi. Abbiamo appena parlato dei dati Istat, che secondo i quali l'aspettativa di vita degli italiani si allunga di 5 mesi, e quindi probabilmente si ritarderà ulteriormente la pensione, età pensionabile, a partire dal 2019. Poi abbiamo parlato della discussione sulla legge elettorale. Al Senato, poste 5 fiducie, si comincia a votare domani con proteste del Movimento 5 Stelle, di Sinistra Italiana, MDP, che ha detto siamo fuori dalla maggioranza. E poi gli adesivi antisemiti con Anna Frank, di cui parliamo proprio adesso. Infatti riprendiamo questa squallidissima vicenda di cui abbiamo parlato ampiamente ieri, ve lo ricordo, con questi adesivi e volantini che gli ultra laziali hanno lasciato nello stadio olimpico, la curva sud, domenica durante la partita con il Cagliari. Lo sdegno è stato unanime da parte della politica, anche il presidente Mattarella ha detto una cosa disumana, naturalmente la comunità ebraica, ne abbiamo parlato ieri con un esponente, poi la conferenza episcopale italiana, cioè i vescovi italiani, e adesso è aperta questa indagine. Ci sono anche due minori fra le 15 persone identificate finora dalla polizia. E poi abbiamo sentito anche cosa hanno detto gli ultra dell'Ascoli. Noi disertiamo il minuto di silenzio, perché sono state varie le iniziative di solidarietà, il minuto di silenzio per Anna Frank lo disertiamo perché è una cosa ipocrita, bisogna pensare ai nostri anziani, ai nostri terremotati, eccetera eccetera, no? Il benaltrismo così di circostanza. Mentre gli irriducibili della Lazio hanno detto ma no, in realtà è uno sberleffo, è uno sfottone, niente di grave. Allora su questo vorrei farvi sentire, perché l'ho sentito poco prima dell'inizio di Effetto Notte, l'onorevole Marco Di Lello, che è segretario della Commissione Antimafia bicamerale del Parlamento, nonché presidente del Comitato Mafia e Calcio, che ha parlato di un DASPO, quindi di misure più stringenti rispetto a questi fatti così gravi. Sentiamo. Noi abbiamo fatto un'indagine che è durata 9 mesi, con 34 audizioni insieme alla Commissione Antimafia, per esplorare questo mondo del tifo nel calcio professionistico, e abbiamo percentuali di presenze di pregiudicati e di malaffare nelle curve, non solo dei nostri stadi, assolutamente al di sopra del tollerabile per quanto mi riguarda. Se partiamo da questo presupposto e dal paradosso che se sei condannato per violenza privata o rissa non vai allo stadio per 5 anni. Il famoso DASPO, questo, no? Cioè il divieto di accedere alle manifestazioni sportive. Se invece sei condannato per mafia o camorra, allo stadio ci puoi andare lo stesso. Parto da questo paradosso per dire come il DASPO, che pure ha svolto una funzione importante con una riduzione significativa del numero degli incidenti negli stadi negli ultimi anni, può essere ulteriormente migliorato come strumento, io penso sia come pena accessoria che come preventiva. Insomma, ampliamo il numero delle persone che possono essere soggette a DASPO, rendiamo il DASPO effettivo ed efficace, facendo in modo che nelle ore durante le partite quelle persone siano altrove e vigilate, e facciamo un primo passo importante per liberare le curve dalla criminalità. E siccome pare che gli autori di questa ignobile azione siano, tanto per cambiare, pregiudicati come tanti, ecco, probabilmente, diciamo, se la norma che noi abbiamo in testa fosse già vigente, questi signori non potevano già essere andati allo stadio, ecco. E allora io penso che noi dobbiamo lavorare in questa direzione, credo che ci sia un consenso largo sia delle forze politiche sia all'interno del governo, ne ho parlato personalmente al Ministero della Giustizia, degli interni, mi pare che ci sia, come dire, un'ampia volontà, vediamo se già in queste settimane riusciamo ad approvare un provvedimento in questa direzione. Ecco, perché sarebbe un'ottima cosa, di Lello, anche perché finora, diciamolo, c'è stata fin troppa tolleranza, no? Lassismo. Beh, sì, si consentono comportamenti francamente insopportabili. Se in Inghilterra sono riusciti ad eliminare il problema hooligans, non capisco perché non possiamo farlo anche noi qui, specialmente ora che abbiamo costruito un consenso che mette insieme i soggetti del mondo del calcio, dal vertice della Federcalcio alle leghe professionistiche, all'associazione calciatori e le istituzioni. Ora dobbiamo passare dalle parole ai fatti. Con il nostro Dario Ricci, il calcio giocato. Sì, Inter-Sampdoria in campo, terzo della ripresa, nerazzurri avanti 2-0 grazie alle reti di Skriniar e Riccardi. Per l'Inter nel primo tempo anche i pali di Perisic e dello stesso capitano. E quindi, insomma, per il momento l'Inter domina, diciamo, Dario. Sì, l'Inter è al momento capolista solitaria, ma poi domani c'è tutto il resto della giornata, mi sa che ci rivedremo. Grazie, allora domani Dario Ricci, noi ci riaggiorniamo brevemente alle 22.